La puntata di oggi di Festivals Backpack è dedicata a un evento che si terrà tra pochissimi giorni ed è effettivamente un festival. Stiamo parlando di Europa Vox che si terrà a Estragon Club l'8 e 9 marzo, quindi tra pochissimo. Per farcelo raccontare abbiamo al telefono con noi Katia. Benvenuta Katia. Ciao a tutti, grazie mille. Grazie a te per essere qua con noi. Noi ti telefoniamo per farci raccontare un po' questo evento, che è un evento estremamente importante che per la prima volta quest'anno si tiene a Estragon Club. Ti chiederei se hai voglia di raccontarci un pochino come funziona Europa Vox. Allora, funziona semplicemente in maniera molto semplice, ci sono 7 partner, siamo noi dall'Italia, i francesi, il Belgio, gli austriaci, Romania, Croazia e Lituania. Ogni mese ascoltiamo tutte le proposte che ci arrivano dall'Europa, dai gruppi emergenti europei, ne selezioniamo 10. Queste 10 proposte vengono inserite nella piattaforma di europavox.com e da lì noi, direttori artistici dei locali europei, scegliamo quelle che sono le nostre realtà e le nostre band che verranno a suonare. Chiaramente abbiamo la possibilità di scegliere anche degli headliner, in questo caso Cristina Donà e La Pegatina, però a prescindere l'idea è quella di presentare le migliori band che ci sono in circolazione in quel momento in Europa. E quindi si svolge non solo a Bologna, dicevamo Europa Vox, ma anche in altre città, giusto? Assolutamente, anche in altre città. Abbiamo Vienna, abbiamo Bruxelles, abbiamo Clermont-Ferrand, abbiamo Zagabria, abbiamo Bucarest e abbiamo Vilnius. E invece a Bologna si terrà, dicevamo, l'8-9 marzo, sì, la prima sì volta che c'è Estragon Club, giusto? Com'è nato questo connubio? Allora, noi facciamo parte del circuito Europa Vox dall'anno in cui praticamente è stato fondato, nel 2006. Abbiamo lanciato il progetto nel 2016, dopo anni e anni di ragionamenti su come poterlo portare anche al di fuori del territorio francese, e a Bologna l'abbiamo sempre presentato o al Teatro Comunale o al Botanique, semplicemente perché essendo noi laggiù al Parco Nord, a Estragon, ci piaceva l'idea di portare la musica in centro città. Quest'anno, con il Teatro Comunale in ristrutturazione, il Botanique in estate, con delle esigenze diverse di tempistiche per ospitare il festival, abbiamo deciso di ospitarlo nel nostro locale ad Estragon e siamo molto contenti perché le vendite stanno andando molto bene e la programmazione artistica è assolutamente di alta qualità. Katia, ti chiederei a questo punto, dopo il racconto di Europa Vox, come si svolge e come vengono scelti gli artisti, anche quali saranno gli artisti che sono sul palco quest'anno? Allora, abbiamo il piacere di ospitare l'8 di marzo Cristina Donà, Pom, Ada Oda e Aoi Fenessa Frances, mentre il 9 di marzo avremo Aluala, Venga Venga, Rumba de Bodas e La Pegatina. A proposito di programmazione artistica, ti chiederei gli artisti che ci sono quest'anno, insomma, abbiamo visto ci sono artisti italiani, dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia, come vengono scelti questi artisti? In particolare quest'anno, come mai avete scelto questa tipologia di artisti e il paese di provenienza? Allora, sicuramente prendiamo gli artisti piacciono, quelli che toccano le nostre corde vocali e che toccano il nostro cuore. Sicuramente c'è appunto passione, quindi alcuni sono stati scelti perché magari non venivano in Italia da tanto tempo, ma la base comune è sempre una proposta artistica e musicale di alta qualità. Perfetto, allora visto che hai iniziato a raccontarci un pochino degli artisti che suoneranno, abbiamo ascoltato Pom prima di sentire l'intervista, ti chiederei di scegliere un altro artista da fare ascoltare adesso ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e poi torniamo a chiacchierare di Europa Vox. Ma io sceglierei un pezzo degli Ada Oda, che sono una band belga che canta in italiano. Dicevamo, oltre alla musica che abbiamo già un po' citato, ci sono anche dei progetti paralleli, tra cui una mostra fotografica. Ci puoi dire di più? Sì, ospitiamo la mostra fotografica del fotografo francese Richard Belliat, che ci porterà i suoi migliori scatti fatti negli anni 80 e 90 di tutte le band iconiche di quel momento, e noi onestamente non vediamo l'ora. Apriremo alle ore 19, sia venerdì che sabato, e la mostra rimarrà per entrambe le giornate durante tutto l'arco della manifestazione. Allora, gli artisti invece che sentiremo appunto l'8 e il 9 marzo, sarà possibile ritrovarli anche durante la programmazione estiva di Botanique o durante altri eventi, o è one shot? Dobbiamo assolutamente esserci questo weekend perché non ci sarà più la possibilità di recuperarli. So che questa è una domanda trabocchetto, perché vorresti farmi annunciare con gli artisti del Botanique. Non aprirò bocca e ti posso dire che sono one shot assolutamente, che nessuno verrà riproposto, almeno nei nostri spazi in questa stagione, purtroppo. Quindi non bisogna assolutamente perdere l'evento. Allora direi che proprio per questo ricordiamo anche la possibilità di acquistare i biglietti online, che dicevi sono già stati venduti in buona parte, quindi insomma meglio accaparrarseli, e ti chiederei anche se ci sono possibilità di abbonamento, quindi di comprare un biglietto per entrambe le giornate a un prezzo più basso, e dove possiamo trovarli. Assolutamente sì, abbiamo finito i primi early bird sia per le giornate singole che per l'abbonamento, ma su Mail Ticket si trovano ancora l'abbonamento a 20 euro sulle due giornate, sia i biglietti singoli a 15 euro l'uno, quindi un bel risparmio. Beh, decisamente sì, quindi speriamo assolutamente che saranno tante le persone che verranno a scoprire Europa Vox. Ti chiederei anche se c'è una band che secondo te assolutamente non ci possiamo perdere. Credo che tutte valga la pena di essere viste, non so se ho parlato in italiano corretto, ma sicuramente abbiamo la fortuna, fra le tante, e ribadisco sono tutte meravigliose, ma di poter ospitare Pom, che in Italia per la sua seconda volta e per la prima volta a Bologna dalla Francia, è un'artista meravigliosa e non va assolutamente persa. Benissimo, allora io a questo punto ti chiederei se vuoi mandare un messaggio alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che sono in ascolto per convincerli o comunque per fargli capire che assolutamente questo evento non va perso, ma anche soprattutto se hai voglia di scegliere una canzone per salutarci e concludere questa intervista. Ma io invito tutti, a prescindere da Europa Vox, a essere sempre molto curiosi e a non limitarsi ad andare a vedere, a scoprire gli artisti solo perché si conoscono, si sono sentiti da qualche parte. Quindi viva la scoperta delle band che non si conoscono e l'uscire di casa per andare ad ascoltare della musica di qualità, sempre e assolutamente. Questo, ribadisco, a prescindere da Europa Vox, ma proprio un invito che faccio a uscire dalla pigrizia che a volte ci avvolge e che soprattutto nei confronti della musica non ha senso, perché la musica ci cura l'anima. E poi assolutamente vi lascio con un pezzo della Pegatina, perché così questa giornata verrà affrontata in maniera molto positiva. Decisamente, ci tireranno su di morale e ci faranno ballare. Insomma, dicevamo anche che la Pegatina torna in Italia dopo tantissimo tempo, giusto? Sono 10 anni che non suono a Bologna, quindi assolutamente non è da perdere. Benissimo, allora Katia, io ti ringrazio. Ricordiamo che Europa Vox si terrà l'8 e 9 marzo a Estragon Club e che vi aspettiamo assolutamente là. Grazie Katia. Grazie mille Erika, buona giornata. Grazie a te.